dire, tu pensi sempre a chi ti fa soffrire. Canti e il tuo stornello dice, più mi tormenti e più mi fai felice. Suona in il cielo anche tu, o chitarra sincera, sotto voce insieme a me, voglio te, solo te. Se il tuo amor mi mancherà, morirò di nostalgia. Non dormir, non mentir, ma ripetimi che tu sei mia. Falle sentire col sospir dell'onda l'eco di tutte le sirene che cantano con me, ti voglio bene. Suona in il cielo anche tu, o chitarra sincera, sospirando insieme a voglio te, solo te. Se il tuo amor mi mancherà,